jour, bidon, Ottawa Puntata. Buongiorno e benvenuti all'ottava puntata di Ottava puntata, come dice la nostra annunciatrice. Ottava puntata di Bonjour Bidon. Sono le 11, siamo a Cagliari, siamo in diretta e io sono Leonardo Piccione. No, un attimo, sono io Leonardo Piccione. E io sono quell'altro, ovvero Angelo Trofa. L'arrivo di ieri ti ha un po' confuso le idee, mi sembra. Mi ha confuso, dobbiamo vedere, perché effettivamente è una cosa straordinaria. Hanno fatto 213 chilometri a, non diciamo proprio a tutta, ma velocissimi. Insomma, e poi tu più sei deciso per 6 mm. Ma quanto sono 6 mm? Quanto sono? Non lo so. Cosa un c'è? Un insetto? Sì, una formica, una coccinella. La capocchia di uno spillo. Quando ti tagli le unghie, sì, ti avanza una cosa di 6 mm. E quel mastodonte. Che brutta immagine, però. E quel mastodonte di Kittel, che sembra il nome di un mangime per gatti, ha vinto anche ieri. Vai per Kittel! 6 mm. Andiamo da mangiare i nostri gatti e cominciamo. Cominciamo la puntata e vai! Buongiorno, ciao. Micio, come va? Micio? Micio, vieni qua. C'è il Kittel. Vieni, Micio, vieni. Ma quello è Kittekat. Però è vero che assomiglia un po'. Come va, Angelo? Molto bene, oggi è il nostro compi settimana. Giusto, una settimana sì. Che siamo, a me sembra invece l'ottantesimo compleanno. Sì, metteremo sulla torta 80 candeline. 80 candeline, allora, perché noi siamo invecchiati a fare questo programma. Una settimana, festeggiamo tutto come i fidanzati ai primi tempi. Il compi giorno, il compi settimana, il compi mese. Che bei tempi. Eh sì, quando si era giovani. Comunque per oggi vi chiediamo subito, cari amici che siete in ascolto, di commentare subito la nostra trasmissione e fateci sapere quali sono i vostri favoriti per la tappa di oggi pomeriggio. Sì. E poi alla fine li leggeremo, quindi andate nei commenti, scrivete il vostro nome, chi è il favorito per la tappa di oggi, se ce l'avete presente, se no dopo aspetterete che Pietro ce la racconterà. Ma parliamo di ieri, parliamo di Kittel. Però io, per parlare di Kittel e della volata di ieri, chiamerei in causa ormai il nostro Filippo, certo, che dovrebbe esserci. È immancabile come il caldo a luglio, visto che è uno dei temi del tour, come è immancabile anche ormai il suo stacchetto. Filippo, buongiorno. Che bello stacchetto. Sì, sempre lo stacchetto. Io non so se dopo finito il tour riuscirò a presentarmi senza lo stacchetto. Ma ti mandiamo il file audio, poi tu te lo salvi sul cellulare e prima di iniziare a parlare con le persone fai partire lo stacchetto. Sì, e certo. Tipo mia madre mi dovrà chiamare facendo lo stacchetto. Esatto. Potresti anche cambiare nome se vuoi. Potresti essere papparappappa Filippo Cauz in generale. Te lo fai all'anagrafe questo cambiamento. È un po' che non cambio nickname, effettivamente, per cui potrebbe anche essere giunta l'ora. Filippo, dici un po', la volata di ieri, Kittel vince per 6 mm, una cosa che... non si è mai vista, una vittoria così. Forse non si è mai vista, ma ieri... C'è stato un altro corridore che ti ha dato una risposta proprio in diretta, dal vivo, a quello che hai detto tu ieri, avevi detto ieri mattina durante Bonjour Bidon. Assolutamente, si parlava di Bassonagen e dell'azione forse sconclusionato dell'altro ieri, invece Bassonagen ieri secondo per 6 mm. E mi ha dato una risposta bella forte, non mi è piaciuta molto poi l'intervista in cui ha detto mi sono sentito quasi offeso da Bonjour Bidon, ogni volta mi criticano e devo rispondere sulla strada. Non è vero, buon Edvald, noi ti vogliamo bene. Era stata un po' ambigua secondo me la mossa che ha fatto l'altro giorno, ieri abbiamo capito perché gli mancava la prevista. Che è stato Jansen van Rensburg che ha fatto una tirata straordinaria e abbiamo rivisto Bassonagen a livelli a cui non lo vedevamo dal... Da oltre 10 anni, se non sbaglio. Sì. Ma infatti, ma lui si era evoluto in corridore da corse di un giorno, da classiche, e invece adesso sembra essere tornato un velocista da volate di gruppo al Tour de France. Com'è possibile una cosa del genere, secondo te? Magari sente il richiamo del mondiale in Norvegia di quest'anno, con Christoph che sta un po' calando, potrebbe provare a discutere la leadership in nazionale. C'è una dietrologia, tu dici. E poi no, beh dai, non è dietrologia, che poi dopo di nuovo Bassonagen oggi fa l'intervista gnè gnè gnè, Bonjour Bidon, ogni volta mi accusate dietrologie, cioè, non, non aiutiamolo, e poi potrebbe essere che la Dimension Data ha saputo reagire molto bene al passato, no? Visto che comunque ormai continua ad aleggiare gli effetti della questione Cavendish Saga, che poi dopo ne riparliamo un secondo ancora, e continua ad aleggiare e aleggia anche sulle politiche interne della Dimension Data, che io mi aspettavo si convertisse da subito in una squadra un po' più garibaldina, invece ha saputo trovare in Boston Ragin in velocità che non ti aspetta. Sì, vero. E io volevo aggiungere una cosa sul photo finish, perché ieri è stata decisa la tappa da questo apparecchio straordinario che fa tipo 10.000 foto al secondo. Sono riusciti a misurare, grazie a questo strumento, la vittoria di Kittel. L'alternativa, però, leggevo stamattina, sarebbe potuta essere imitare quello che era successo nel 1986 al campionato nazionale belga juniores. Mm-hmm. Cosa era successo? Era successo che Nelissen e Baguet erano arrivati praticamente ex aequo, non si riusciva a distinguere chi fosse il vincitore della tappa, e gli organizzatori decisero di far disputare a loro due un chilometro, uno di uno contro uno, per vedere chi vincesse in volata. Okay, la bella. Una bella di un chilometro. Sarebbe stato bello ieri vedere Kittel contro Boston Hagen. La pallina della vittoria del ciclismo. Non so. E invece ci sono queste tecnologie meravigliose, perché comunque vedere uno sport tradizionalmente antico come il ciclismo poi aprirsi ed essere deciso da una tecnologia così moderna è un contrasto che fa parte di questo sport ed è bello a un certo punto. A te piace questo contrasto, Filippo, sul antico moderno? Sì, no, sono anch'io affascinato dal photo finish. C'è uno speciale su Cycle Inside, ve lo segnalo a chi ascolta, che è un sito che si occupa molto di tecnica in italiano, per cui abbordabile per tutti, che ha dedicato un lungo speciale al photo finish e spiega molto bene come funziona. Anch'io ho imparato tante cose. In realtà questa del chilometro non mi spiace, ma io, vista la tappa di ieri, avrei fatto solo quello. Sì, solo quello. No, ma in realtà no, queste tappe sono importanti, perché poi magari fra qualche giorno su qualche montagna dei Pirenei qualcuno pagherà i 213 km di caldo di ieri. Quindi no, chi vince il Tour de France deve essere in grado di sopportare anche le tappe come quelle di ieri, sia gli spettatori che i corridori. Sì, io ieri, tra l'altro, ho seguito il tuo consiglio e mi sono svegliato nei due punti che dicevi tu, guarda. Ho visto la volata e ho visto il traguardo volante. Però Angela, adesso per concludere su Kittel, ci hanno mandato giusto, scusatemi, un'altra cosa al volo sul photo finish prima di abbandonarlo. Sì. Che è il fatto che il photo finish ha permesso anche ieri di riaprire una montagna di discussioni. A me ha molto stupito come questa tecnologia, che è perfetta, non dico al millimetro, molto meno al micromillimetro, per cui non può sbagliare, abbia creato di nuovo delle certezze granitiche. Ama aveva vinto Boston Hagen, ama la giuria anche stavolta, e di nuovo vedi che l'alleggiamento, se così si può dire, dell'affare della giuria dell'altro giorno prosegue, ogni volata si trova dietro un codazzo di... Anche noi durante la volata abbiamo discusso su chi avesse vinto, cioè io e Leonardo avevamo opinioni diverse. Sì, sì, sì, a occhio nudo ovviamente sembrava avesse vinto Boston Hagen, poi la rimonta di Kittel pazzesca. Vabbè, però ora per chiarire definitivamente questa cosa serve la scienza, serve assolutamente, la abbiamo statistica. Un graditissimo ospite. Perché scusami Angelo, fammi dire una cosa, la statistica, c'è bisogno di maggiore cultura statistica, perché nei giorni scorsi per esempio si è detto, dopo la vittoria di Aru alla Planche des Belles Filles, che la Planche des Belles Filles è la montagna degli italiani, perché hanno vinto due volte su tre, oppure che storicamente chi indossa la maglia gialla sulla Planche des Belles Filles vince il Tour de France, storicamente dopo due volte che è successo. Insomma, andiamoci piano con questi i numeri. Sono i punti fermi di Leonardo Piccione, alla quale farò soltanto una domanda. Leonardo, in che cosa sei laureato? Io sono laureato in letteratura. Non è vero, in cosa sei laureato, Leonardo? Vabbè, in statistica. Vabbè. Immaginatevi una giornata con Leonardo che ogni volta che si dice una sciocchezza sui numeri gli parte l'embolo. Non è vero. Ma è vero. Proprio per aiutarlo, il nostro gradito sponsor, ovvero gli orologi sbagliati del Tour de France, ci ha inviato, e noi siamo contentissimi, un luminare. Abbiamo qui il professor... Marileno Magnaroma, piacere a tutti, salve. Il signor Marileno Magnaroma, il professor, mi scusi, professore piacevolissimo. Statistiche. E il professor... Tra l'altro volevo ricordare che la statistica precedente appunto era un 2 su 2, quindi 100% appunto. Sì, è vero. Comunque, professor, parli un po' più vicino al microfono, professore, lei forse non è avvezzo al mondo dello spettacolo, professor Magnaroma. Allora, parliamo un po', professore, lei ha avuto modo di osservare questo photo finish? È così, assolutamente, appunto i nostri dati statistici ci dicono che c'è una precisazione da fare. Io di photo finish, per l'appunto, scientificamente non ne so un ciuffolo, per l'appunto. Ma come? Però mi faccia dire, allora in compenso però posso dirvi che tale Marcel Kittel, tale Marcel Kittel, quello che voi nominate spesso, sì, no, quello che dite essere bello, insomma, statisticamente, sì, non so in che percentuale, però insomma Marcel Kittel ha raggiunto ieri in volata i 68,173 km, sì, orari, battendo, certo, il precedente record di velocità raggiunto in bicicletta nella regione della Borgogna. Ah, tra l'altro, scusate la precisione innanzitutto, trattasi dei 67,254 km, fatti segnalare il 4 di aprile 1983 dall'ex campione nazionale capoverde di origine sassarese Giulietto Martirazzi. Ma scusi, chi è Giulietto Martirazzi? Giulietto Martirazzi è un grandissimo campione del capo di sopra, proveniente però dal capoverde, insomma una particolarità, un'eccezione della statistica. Un'eccezione della statistica. In sella appunto tale Giulietto Martirazzi ha ad una graziella rossa. Una graziella velocissima, sì, non preparata, non insomma artificiale ma naturale, trainata, sì, da 23 cinghiali femmina, da non confondere con i 23 cinghiali maschi. Perché, beh, certo, una differenza. La differenza sta per quale? Newton metro, le femmine spingono di più a differenza del cinghiale maschio. Ah, in occasione tra l'altro di queste tradizionali celebrazioni in onore di San Benigno, San Benigno, patrono appunto di tutti i capoverdiani e dei capo di sopra. Nella quale chiesa appunto si possono... Ma quale chiesa? Scusa, non ho capito, mi sono perso il filo, di che chiesa stiamo parlando? Però se voi non prendete appunti voi siete peggio dei miei studenti di Rochester. No, dove insegna lei? Università di Rochester, ignoranza è una brutta cosa, mi scusi, lei come si chiama? No, io sono Angelo Trofa. Piacere, Marileno Magnaroma. Ho capito, mi scusi, professor Marileno, dov'è per Marileno, i nostri... Marileno, sì, ho capito, Marileno, no, scandisca anche lei, dov'è esattamente Rochester? Attenzione, per i nostri... Rochester è un'università americana nella quale noi produciamo moltissimi studi internazionali e non gli ho California University. Va bene, comunque... Volevo anche precisare una cosa, la quale no, perché appunto si possono ammirare in questa chiesa molto importante appunto un organo manuale collegato a 37 prende appunti campane, 17 croci rappresentanti una famiglia debellata dalla peste nera. Madonna, vabbè, ho capito, che non colga nessuno. Però eravamo partiti dal fotofinish. Non vedo l'attinenza, vabbè, comunque la ringraziamo. Grazie professore, lei rimanga con noi. Ci ha aperto un mondo di cose interessanti. Sì, numeri innanzitutto, numeri, sono importantissimi. Va bene, grazie, ringraziamo lo sponsor degli orologi del tour. Ma era necessario pure avere non lo so, l'ospite. Tu sei laureato in statistica e te lo becchi. Sì, ma mi hanno detto che ne sapeva veramente, ma questo qua è... E ne sa. Comunque, invece, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Ieri era una tappa ovviamente per velocisti e il nostro Fabio Aru non è stato protagonista di nessun episodio, però è stato protagonista di un tweet dove afferma che il colore della maglia Pua gli piace parecchio. È vero, gli ha detto che gli sta bene la maglia Pua perché il bianco e il rosso sono i colori della Sardegna. Anche. Assolutamente. Allora, su questo abbiamo interpellato il nostro Elio Turno Artemalle. Ah, finalmente una persona seria. Sì, che ci ha fatto una piccola riflessione sui colori. Gli abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa sui colori in Sardegna e lui ha fatto una riflessione su un colore molto particolare, su un modo di dire sardo, molto bello, sì, secondo me molto affascinante. È una piccola riflessione che adesso ascolteremo nella rubrica Il Sardo in Sardo. I colori, oltre a essere oggetto di ispirazione per artisti e visionari e suggerire piattaforme teoriche ai filosofi che scandagliano l'estetica, i colori, dicevo, fanno spesso parte dell'armamentario minimo dei discorsi retorici. Combattere per i propri colori, il colore dell'odio, i colori della bandiera, i colori della propria terra e chi più ne ha più ne metta. In Sardegna esiste, ed è da tutti conosciuto e citato, il colore antiretorico per eccellenza. Un colore indefinibile, brutto, sgraziato per definizione e non riconducibile o assimilabile a nessuna delle infinite possibilità cromatiche comprese tra l'infrarosso e l'ultravioletto. Si tratta del suo colore da cane vuendi, il colore del cane in fuga. Ecco, quando sentiremo un campione rivendicare con orgoglio l'appartenenza ai colori del cane in fuga, sapremo che nella storia universale della retorica qualcuno, dopo millenni, ha voltato pagina. Bello anche oggi l'intervento di Elio. È un'espressione in sardo, il colore del cane che fugge. a me piace parecchio questa espressione, evidentemente non ha ancora luogo nel Tour de France il colore del cane che fugge, per quanto ci sono le fughe, e magari fuga sarà anche quella di oggi, quella che potremo commentare stasera, ma ne parleremo dopo. Della tappa di oggi parleremo più tardi. Anzi, continuate a farci sapere, se volete, nei commenti chi sono i vostri favoriti per oggi, poi dopo ne riparleremo anche con Filippo dopo aver sentito il resoconto di Pietro. Ma tornando ad Aru, professore, visto che professor Magnaroma, ma di nuovo gli dobbiamo chiedere qualcosa, lo sponsor ci ha detto che dobbiamo interpellarlo almeno tre volte, allora ci dica un po', lei si è avuto modo di studiare la storia della maglia Pua, sa che adesso c'era un sardo, è successo altre volte nella storia. Eccoci, allora, per precisare appunto la vicenda del signor Aru, mi pare si chiami così appunto, è la prima volta che la maglia Pua del Tour de France viene indossata da un corridore nato a San Gavino Monreale, sempre Sardegna, da non confondere con Capo di Sopra, di cui parlavamo appunto di sopra. È un'altra città proprio. Per l'appunto, lo vedo che è sagace lei appunto. Allora, il 3 luglio del 1990 accadde questo, insomma, la nascita di questo individuo. Invece non è la prima volta che la maglia bianca del Tour de France viene indossata da un corridore nato a Bury, Greater Manchester, il 7 agosto 1992. Certo. Difatti tale maglia bianca del Tour de France è stata indossata nel 2016 da Adam Yates, nato anche egli a Bury, Greater Manchester, il 7 agosto 1992. Sono gemelli. Per l'appunto, infatti, dire gemelli è così, è generico. La scienza invece vuole dire che i gemelli, appunto per questa precisazione che lei mi fa, io ho scoperto che sono Adam Yates e fratello gemello di Simon Yates. Ma questo lo sanno tutti. Dire gemelli è troppo facile, invece precisare Simon Yates e Adam Yates è scienza, appunto. Comunque l'attuale maglia bianca, appunto, nato anche lui a Bury, Greater Manchester, il 17 agosto 1992. Si, lei ha preso appunto. Bravo, stesso gemelli sono nati lo stesso giorno, nello stesso posto. Lei tratta con troppa facilità, appunto, l'argomento gemelli. Si deve precisare. Allora, i due sono identici in tutto, per l'appunto. Sono gemelli. Allora veramente lei, guardi, l'ignoranza in Sardegna è terribile. Allora, avanti, si differenziano soltanto per la lunghezza esatta del loro naso. Mi stavo preoccupando. Appunto, questa è scienza, vi dicevo, 5,18 cm quello di Adam, 5,24 quello di Simon. Ma c'è un dato molto più importante, per cui la notte, con delle specifiche misurazioni geometriche che abbiamo fatto, le dimensioni paiono invertirsi in luoghi, insomma, più specificati. Io, Giulietto Martirazzi, a me è rimasto ecco in testa, appunto, perché... esatto, perché lui è un bravo studente. Ha vestito la maglia a rombi fucsia, il migliore scatore al giro delle province indipendenti del Costa Rica orientale, tra l'altro una battaglia difficilissima, quella dell'indipendenza del Costa Rica orientale, per 4 edizioni consecutive della prestigiosa corsa a tappe dal 1974-1977. Vorrei ricordare, da 74-77 è meno di un lustro, molto più di un anno. Va bene, è estremamente interessante, la ringraziamo. Adam Yates e Simon Yates, lo sapevano tutti che erano... Vabbè, grazie, la ringrazio. Abbiamo scoperto che sono gemelli. Rimanga con noi. Poi lo sponsor ci punisce. Sì, infatti. Comunque noi andiamo avanti. Grazie, professore. Che dice Filippo? No, grazie, è utilissimo. Io ho preso un sacco di appunti. Hai preso appunti? Perché... Ma scusami, ma tu Giulietto Martirazzi lo conosci, il campione capoverdiano di origini sassaresi? Perché io sono impreparato. Allora, ha ragione il professore che lì aleggia un'ignoranza devastante. Vabbè, sarà mi sto convincendo. Che colpa nostra, Giulietto Martirazzi, vabbè. Colpa nostra. Comunque noi andiamo avanti, oggi abbiamo l'onore e il piacere di presentarvi un nostro nuovo sponsor, perché da quella situazione di nicchia che occupavamo prima, adesso siamo diventati famosi, dopo una settimana abbiamo un nuovo sponsor. Oltre agli orologi del Tour, oggi vi presentiamo un nuovo sponsor che ha deciso di credere in noi e ci ha gentilmente sponsorizzato dandoci ben un pacco del suo prodotto, e noi siamo molto grati. E in cambio state per sentire il nuovo spot del nostro sponsor. Ok guys, 2 more minutes. 2 minuti. Mi sto rinforzando, pupaci. Altrecin, crema alla teina. Tecnologia asburgica per i tuoi polpacci. Tecnologia asburgica per i polpacci. Sì, la tecnologia asburgica per i polpacci. Alla teina. Sì. Però mi ricorda qualcosa che ho già sentito. No, no, questo è Altrecin. È Altrecin. È tutta un'altra cosa. Cioè, l'Altrecin. Certo, l'Altrecin. Però vabbè, la nostra puntata continua in maniera scoppiettante. Avete capito che il sabato, le puntate del sabato sono varietà, più che il programma sportivo. Perché? Perché stai dicendo così? Mi sembra che stiamo raccontando tante storielle. Non so come risulti nella tua università di statistica, ma qui risulti veramente uno di Radio 3. Guarda, fatelo dire. Allora, andiamo avanti in maniera, come dicevo, scoppiettante pirotecnica, perché ieri il caso ha voluto che io sono andato al Poetto, ero al mare con la mia famiglia e ho trovato un ospite, ho trovato una figura fondamentale, importantissima, e ho pensato, ho preso lì il cellulare, ho registrato subito un'intervista che cambierà la nostra visione del mondo, ho incontrato il personaggio, anzi, un personaggio veramente importante, conoscerete tutti quanti Eric Cartman, che è stato di South Park. Esatto, lui l'ho intervistato, l'ho fermato. Ma che ci faceva il Poetto Cartman? Non lo so, ma che te ne frega, cioè, l'ho incontrato. L'ho incontrato e gli ho chiesto del ciclismo. Ascoltate queste interessanti parole al Poetto. Sì, sì, guarda, vedrai che questo intervento è veramente fondamentale. Vai, ascoltiamo Eric Cartman. Ecco, siamo qui con Eric Cartman. Sì, funziona. Prova. Siamo qui con Eric Cartman, l'ho trovato al Poetto. Non posso che farti due domande. Angelo, prova. Sì, sono io. Sì, sì, sì. Ecco. Senti Eric, dimmi una cosa. Sì. Noi facciamo un programma in radio, su Facebook si chiama Bonjour Bidon, l'hai mai sentito nominare? No, mai. Vabbè, comunque magari puoi connetterti alla nostra pagina. Sì. Comunque, noi parliamo di ciclismo, tu sei sportivo? Ah, non ti piace il ciclismo? Una merda. Ah, davvero? Sì. Caspita, allora non capisco. Tu non vai in bicicletta? No. Io sto sul tappetino bello comodo. Beh, effettivamente il tuo peso ti renderebbe tutto molto difficile. Angelo! Sì. No, cosa vuoi dire? Che sono grasso? No, non ho detto che sei grasso, sei... Ho solo le ossa grosse, cazzo! No, va bene, sì, scusami. Non mi rompete i coglioni, qua è questa trasmissione di merda. No, vabbè, scusami. Quindi tu non lo segui il Tour de France? No, mi fa schifo. Ah, vabbè, in generale... No, mi piace uno, mi piace. E chi ti piace? Sagan. Ah, Sagan. Però non c'è più, sai che ha dato una gomitata... E ha fatto bene a quello stronzo di Cavendish, poteva anche menarlo un po' di più quel... Bravo, Sagan, sei mio mito! Forza Sagan! Va bene, con questa nota sportiva abbiamo chiuso il nostro collegamento. Ciao, mi avete rotto le palle, io me ne vado a casa. Ma ti sembra il caso di sto linguaggio? Ci ha detto che siamo una trasmissione di merda, ma non... No vabbè, scusami, pensa in maniera giornalistica. Ti trovi uno scoop, Cartman, c'hai lo scoop in mano, ho preso. Ma poi ha ritirato fuori la storia di Sagan e Cavendish, che è già sepolta, morta. È un punto di vista. Tra l'altro è sepolta, morta. Quando io l'ho intervistato non è ancora sepolta, perché ieri il TAS di Losanna ha deciso che non poteva tornare in corsa. Quindi, cioè, allora era ancora attualità. Adesso esatto. Sono tutti bravi a dire che è sepolta sta storia. Allora. Va bene, abbiamo avuto anche Cartman, Bonjour, possiamo essere soddisfatti per il resto della nostra esistenza. Siamo veramente pronti per andare a Radio DJ. Allora andiamo avanti e adesso è arrivato il momento Torniamo sulle cose serie, di attualità. Diciamo che noi speriamo tutti quanti che la tappa di oggi, della quale stiamo per parlare, possa essere la tappa che cambia un po' il corso dell'andamento del Tour de France, che è stato soporifero in questi due giorni. Oggi invece è una tappa che dovrebbe essere un po' più interessante, ma ce ne parlerà in maniera più ampia il nostro Pietro Pisaneschi con l'ottimo Pietro Pisaneschi con i suoi resoconti. No, ma che sto dicendo? Con la sua tappa che verrà. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione dell'ottava tappa di questo Tour de France 2017 da Dole alla Station de Russe per 187 km. Dopo due tappe consecutive dedicate ai velocisti, ecco una frazione contraddistinta da continui sali scendi e con la presenza di tre salite dalla difficoltà crescente. Si parte da Dole, città natale di Louis Pasteur, fondatore della moderna microbiologia, e si attraversa il dipartimento della Giura prima di arrivare a 1178 metri della stazione sciistica di De Russe, dove il Tour è arrivato una sola altra volta, ossia nel 2010, quando Sylvain Chavanel conquistò tappa e maglia gialla. La prima difficoltà altimetrica di giornata verrà affrontata dopo circa 95 km dalla partenza. Si tratta del Col de Joux, 6.1 km al 4.7%. A 55 km all'arrivo è invece posizionata la Côte de Viry, 7.6 km, al 5.2% di pendenza media, ancora però troppo lontana dal traguardo per pensare ad una rigida selezione che invece potrebbe avvenire nella salita di prima categoria del Monte de la Combe, che i corridori approcceranno quando mancheranno 23 km all'arrivo. Il Monte de la Combe misura 12 km con una pendenza media del 6.4%, un'ascesa regolare segnalata di prima categoria. Dalla vetta mancheranno 11 km al traguardo con un ultimo lievissimo saliscendi. Tappa lunga, tre salite, sembra un giorno ottimo per andare in fuga e provare a vincere, anche perché i big potrebbero risparmiare la gamba per la tappa da incubo di domani. È tutto per oggi, vi invito a seguire il post tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir! Bene, vediamo un po' allora ragazzi, secondo voi cosa può succedere allora, su questo Monte de la Combe? Monte de la Combe, Pietro ha detto che i big si risparmieranno, Filippo sei d'accordo? Non vedo perché non dovrebbero risparmiarsi, la loro specialità per cui lo faranno sicuramente. Devo dire che nel racconto di Pietro è stata citata la maglia gialla di Chavanel, che mi ha fatto venire questa sensazione che, di cui ho scoperto l'esistenza da quando esiste con Jules Bidon, che è la pelle d'ocra. È quella sensazione che tutti vogliamo provare almeno una volta al giorno. E il solo ricordo della maglia gialla di Chavanel mi ha fatto venire la pelle d'ocra. Quindi siamo d'accordo che i big potrebbero controllarsi, anche se secondo me ce ne sono così tanti vogliosi di far qualcosa che sull'ultima salita potrebbe anche accendersi un minimo di bagarre, per usare un termine che ci piace, però tendenzialmente il pronostico è per la fuga. Io penserei a una fuga con un sacco di francesi dentro. Da facciamo Pino... i nomi, allora, che c'è sempre in palio. Facciamo un elenco. Pino, Roland, Vauclair, Barguille... Viermo magari. Mi hai detto 80, o ne scegli uno o non giochi. Tra tutti questi? Tra tutti questi dico Roland. Roland. Filippo. Dai, anche tu Filippo, spara un nome, dai. Beh, a parte che io devo dire ogni giorno la frase oggi arriva la fuga, e oggi lo dico con ancora più certezza. Facile oggi però. Io invece gioco sul versante dei belgi. Il nome oggi è un affare tra belgi, sono tanti, penso allo stesso Gilbert anche, ma soprattutto a uno dei otto Sudal, e io mi sbilancio dicendo che uno tra Venos e Vellens oggi si prende tappa e maglia gialla. Addirittura! Io pensavo a De Gendt, invece tu sei andato su Vellens e Benot. De Gendt è più indietro in classifica, potrebbe vincerti la tappa, ma non certo vincere la maglia gialla. Non certo. Oppure Chavanel va in fuga dal 2011 e prende la maglia gialla con 4 anni di vantaggio. Alcuni commenti che ci sono arrivati: c'è Pietro Trentini che dice che secondo lui oggi vince Nibali perché ha già vinto alla planche de Belleville e la statistica dice che dovrebbe vincere anche oggi. Beh, certo. E poi chi altro? Anche Antonio Loi dice Roland, quindi siamo già a due pronostici per Roland. E basta, se ci arriva qualcun altro ve lo leggiamo più tardi, ma mi sembra di capire che è il momento di nuovo della scienza, perché da accordi con il nostro sponsor interviene di cosa nuovo da dire il sulla tappa di oggi Magnaroma. Professore, cosa c'è della tappa di oggi? Perché... ma fondamentale da dire che la tappa di oggi è la settima tappa di oggi, e che per la seconda volta è la tappa 8 in realtà. È l'ottava, professore. Quella di oggi? Oggi è l'ottava, sì. Rispetto alla 7? È una tappa di lei sta dicendo scientificamente l'8 viene dopo il 7? Così mi hanno insegnato. Questo è da verificare, questo è da verificare, adesso io non so, insomma, verificherò anche con gli strumenti della rabdomanzia, delle quali io sono molto competente. Ah, esperto di rabdomanzia lei. Sì, scientificamente è stato approvato che proprio scientificamente la rabdomanzia non ha nessuna valenza scientifica, per cui scientificamente statisticamente certo. È perfetta come sì, relazione. Appunto, per cui dicevo che per la seconda volta nella storia, sì. Quello di che si verificherà oggi, dico, sì. Una tappa del Tour de France 2017. Viene corsa di sabato. E beh certo, ecco, accadrà soltanto altre due volte, queste nelle date 15 luglio 22 luglio prossimi, per tutti i nati in ascendente alla Vergine, e dopodiché il fortunato evento non si verificherà mai più. Ecco, l'evento che il Tour de France 2017 viene corso di sabato, non sì, si verificherà mai soltanto più. Altre due volte, ripeto, soltanto appunto 15 luglio 22 luglio prossimi. Ci segniamo le date, Angelo, esattamente, perché sì, sì. Che bella cosa la scienza, la statistica a certe volte illumina, sì. Grazie, posso, grazie. Posso fare una domanda al professore? Sì. Certo. Collegato, mi sente? Prego, sì, prego, sì. Mi dica. Io sono affascinato quando sento in televisione parlare di scienza, perché vedo che c'è una cultura scientifica profondissima, specie negli studi RAI, per cui se potrebbe fare una domanda una conduttrice della Rai potrebbe essere per dire che percentuali ha la tappa di oggi. Che percentualità rispetto a, alla quale percentuale mi dica? Percentuale in generale dice. La domanda in Rai sarebbe questa. Allora la percentuale secondo me, allora siamo intorno al 43-47% diciamo. 43-47 sì, questa forma. Vorrei ricordare infatti che tra 43 e 47 è sempre meno di un lustro, molto più di uno. È molto più di uno, sì, sì. Per appunto, che è scientifico comunque. Una tappa da. Beh, molto interessante, beh che bella cosa l'ascesa. Comunque ringraziamo il professor Magnaroma, grazie. A lei, torni a trovarci se proprio non ha di meglio da fare. Vediamo se mi pagano il viaggio, insomma. Vedremo, potrei anche tornare, ecco, sì. Grazie. Salutiamo anche Filippo, grazie Filippo. Arrivederci. Tu torni domani o nei prossimi giorni, sì. Allora, il mio ritorno di domani è dato tra 32 e 36%. 32 e 36. Hai qualche lezione alla Rochester University anche tu da tenere? Mi sono iscritto a un dottorato lì, Un dottorato lì? Sì, mi stanno insegnando tanto. È un po' come essere, non so, lezione da Alberto Angela, quel livello di scienza da Giacobbo. Che bello, dai. Allora al 32-36% ci vediamo domani. Ci sono anche altri commenti, alcuni altri fanno il nome anche di Roland, no, di Pinot oggi. Pinot? Anche Pinot. Che... E poi c'è, vabbè, Andrea Secco che scrive vince Bartali su Reason Bobet. Bartali ha sempre vinto comunque. Chissà che percentuale ha di vincere Bartali, ma andiamo avanti perché è arrivato il momento che tutti aspettiamo. Abbiamo già pronta, come abbiamo detto prima, la pelle d'ocra, perché è il momento di Fiammetta Ruyu, la nostra inviata in terra di Francia, che ha portato e ci ha inviato i suoi resoconti dalla Station de Russe. Sì, i suoi resoconti ocra. Questa storia inizia dove il cielo incontra la montagna. La montagna. E la montagna incontra la terra. Mm-hmm. La montagna incontra la terra dove la terra incontra il cielo. Il cielo incontra la montagna che incontra il cielo, che incontra la terra che incontra la montagna. Ci sto capendo più niente. Tutti incontrano tutti, insomma, cielo, terra e montagna. Questi tre elementi che si incontrano restano ben separati negli occhi mielosi e potenti di Frant. Mielosi sopra. Il giovane Frant, maestro caseario, nutre un sogno nel suo felpato cuore: fare il primo formaggio al contrario, con la crosta all'interno e la pasta fuori. Forza Frant, mungi Frant, fai il formaggio al contrario Frant, metti ad asciugare i tuoi sogni. Ma è lui. Le regole non scritte degli uomini bandiscono i progetti che si posizionano oltre la linea dell'utile e del comprensibile. Evviva le regole degli uomini! Il formaggio al contrario di Frant non sembra formaggio. No. Non ha sapore di formaggio, non ha neanche profumo del formaggio. E che cos'è? Nessuno lo vuole. Frant è lo zimbello di tutto il paese. Un duro colpo per Frant, che perde la fiducia, perde la casa, perde la moglie, perde anche l'ultimo giro a 7,5. Pure il giro a 7,5. Negli occhi circolari di Frant ci sono quintali di formaggio andato a male come il suo ottimismo. E mentre una lacrima gocciola sul suo viso, un airone disegna il cielo, attonito. È bellissimo. Diventa sempre più brava. Sempre più precisa, sempre più attenta ai problemi delle persone e ai gusti del nostro pubblico, perché vi ricordo che questa nota un po' patetica è quello che le persone vogliono. Angelo, il mio ottimismo dopo questa puntata di Bonjour Bidone è andato a male, completamente come il formaggio di Frant. Di Frant. Questa tua ironia onestamente non trova luogo di esistere quando parliamo di poesia, quando parliamo di sentimenti come solo Fiammetta Ruyu sa fare. Oh mamma mia, di questa puntata, oggi è stata faticosissima. Oggi abbiamo concluso dopo ben 35 minuti. Di nulla. Beh, abbiamo commentato... Kittel? Lo vuoi il Kittel? Va bene, concludiamo salutando tutti voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo di farci sapere se il programma vi piace, se non vi piace, se ci sono dei suggerimenti, chi sono i vostri preferiti, e tra poco, nei prossimi giorni, lanceremo anche la nuova sfida tra le frasi più fatte e tra le frasi fatte. Un'ultima cosa prima di salutarvi, ringraziamo due persone che ci hanno aiutato oggi, Felice Montervino, grande Felice, assolutamente, anche Francesca Bianca Vettori, che è la voce ufficiale di Eric Cartman, la doppiatrice ufficiale di Eric Cartman. Perché noi sembriamo stupidi, però almeno i nostri ospiti sono competenti e sono persone serie. Assolutamente. Quindi lei è la vera doppiatrice di Cartman. La Francesca Vettori. Grazie a lei, grazie a tutti quanti voi. Salutiamoci con una di quelle belle frasi che sappiamo fare soltanto noi. Dai, facciamo una frase statistica oggi. Chiediamo al professore la frase. Sì, sì, sì, una frase conclusiva. Professore, al volo, c'è ancora? È sveglio? Venga, l'ultima frase per salutare. Bella però, bella energica, eh. Noi cominciamo con: restate col ciclismo perché? Perché molto meno di un lustro, molto più di uno. È giusto. Scientificamente provato. È scientifico. Va bene, a domani alle 11. Scientificamente, ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobet.